Il cuore pur mai non sentesi felice appieno chi su quel seno non li va amore la donna è mobil qual piuma al vento muta d'accento e di pensier e di pensier Pensier

nostro amor. Se fosse l'ultimo del nostro amor. Ne brevi istanti, prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse, schiuso era l'uscio e la magion deserta. E dove ora sarà quell'angel caro, colei che prima poté in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti, colei sì pura il cui modesto sguardo quasi spinto a virtù talor mi credo. Ella mi fu rapita, e chi l'ardiva ma ne avrò vendetta. Lo chiede il pianto della mia diletta. Il dubbio e l'ansia del subito periglio dell'amor nostro memore il suo gualtier chiamo. Soccorrerti, cara fanciulla amata, che vorria con l'anima farti qua giù beata, ehi che le sfere agli angeli. Ehi che le sfere agli angeli per te non invidio. Ehi che le sfere agli angeli per te. Le sfere agli angeli per te non invidio, non invidio per... amor mi chiama a volare, io deggio a lei il certo mio darei per consolar quel cor. Il certo mio darei per consolar quel cor. Ma sappia al fin chi l'ama, conosca al fin chi sono, apprenda che anche entrano negli schiavi amor. Ma apprenda anche entrano, anche entrano negli schiavi, ah, negli schiavi. Quel pensiero lo agita, quale pensiero lo agita, quale cangio d'umor, quale cangio, quale cangio. Possente amor mi chiama a volare, io deggio a lei il certo mio darei per consolar quel cor. Il certo mio darei per consolar quel cor. Ma sappia al fin chi l'ama, conosca al fin chi sono, apprenda anche entrano degli schiavi amor. Apprenda canto entrano, canto entrano degli schiavi, ah, degli schiavi amor. Come canto d'umor, come canto, come canto degli schiavi amor. Come canto d'umor, come canto, come canto. Fossi, se il mio sogno si avverasse, un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria, e il plauso di Menfi tutta. Dolce Aida, tornar di lauricinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Celeste Tchau.

per poco in seno acquetati, o grido dell'onore, avrai sicuro vindice quest'on t'allaverò. O mio suor, o infamia, o se quest'on t'allaverò, si laverò. O mio suor, o infamia, o se quest'on quest'onta la vero. O mio rimorso infamia, io vissi in tale errore, ma il turpe sonno affrangere il ver mi valerò. Per poco in seno acquetati, o grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice quest'on t'allaverò. O mio rossor, o infamia, o se quest'on t'allaverò, si laverò. O mio rossor, o infamia, o se quest'on passi quest'on t'allaverò, quest'on ta, quest'on t'allaverò. Amor, merce, udite or tutti del mio cor gli affanni e se voi negherete il vostro aiuto forse per sempre Ernani fia perduto. Come ero già dal cespite passito fiore d'Aragonese vergine scendea mi voce al cuore fu quello il primo palpito Silva stendere posa su lei la mano domani trar l'altalamo con fidali in umana se la m'è tolta poi misero da morirò d'affanno io morirò d'affanno io ne morirò rapisca si arrabita ma in seguir ci sarà l'artica e il giuro se ti seguire quando un uomo in cielo copre tutto e compagna d'ora per gli scherzi tu rivale che ti ascolti ogni cura e mettermi la tua bella e banditi via la stella sarà degna tua valore sarà degna tua valore che sul tuo bel viso venga a brillare il riso gli stenti suoi le pene Ernani scorderà oh, gli stenti suoi le pene Ernani scorderà

vita inferno all'infelice, in vano morte desio. Yeah. sta la scure. O quando fine avrà 交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场。在接下来的节目中，请欣赏安德烈·波切利演唱的意大利民歌。

qui nella tranquillità. I giorni si ripetono, però mi manchi tu. Qui le cose ti ricordano, anche i silenzi ti raccontano, e mi manchi tu. Dopo di te ricominciare è difficile, dormi, sono il diavolo, io Io che nei tuoi sogni ormai ogni notte scivolo, mi ascolti ed io so già che vuoi da me un altro sogno che non hai osato credere mai. Un sogno che al mattino non racconterai, sperando solo un po' che non sia veri mai. Tu ti dai così solo per metà, a metà fra il sogno e la realtà. All'alba giù dal letto sono l'angelo. Sei bella ancora un po' assonnata, dimmelo. C'è posto anche per me accanto a te per tutto il giorno. Io potrei darti l'anima, vuoi? Sarò per te l'amico più sincero io, un'oasi di lealtà e qui dal posto mio mi darò così, mai solo a metà, a metà tra il sogno e la realtà. E resto fermo qui, intanto i sogni tuoi qui ti porteranno prima. 喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。